Variazione del lavoro dipende da. Variazione del lavoro dipende da. Massa dei bisogni utili, naturali e storici. Massa dei bisogni utili, naturali e storici. Prezzo degli oggetti d'uso, prezzo degli oggetti d'uso. Spesa istruzione operaio, spesa istruzione operaio. Donne e bambini al lavoro, donne e bambini al lavoro. Produttività del lavoro, produttività del lavoro. Grandezza estensiva intensiva del lavoro, grandezza estensiva intensiva del lavoro. Nazione ricca, salario alto, ma prezzo del lavoro più basso che in povera. Nazione ricca, salario alto, ma prezzo del lavoro più basso che in povera. Prezzo del lavoro più basso che in povera.